Accendi la TV, la radio, sfogli il giornale e cosa trovi? I dibattiti sull'IMU, che si susseguono ormai incessantemente da mesi. La famigerata imposta sulla casa, introdotta dal governo Monti ma prevista già dal governo Berlusconi, che tuttavia ne ha disconosciuto la paternità o la maternità. Tanto che Silvio, bel paraculo, come direbbero dalle nostre parti, ci ha fatto pure una campagna elettorale sopra, mettendo sullo stesso piano multiproprietari e poveracci che pagano il mutuo da una vita per consentirsi un tetto sulla testa, con tanto di volantini scambiati per buoni in borsa da qualche elettore avvezzo al gioco dei tarocchi. Ora pare che l'IMU sarà abolita, anzi sarà sostituita da nuove tasse, definite da acronimi da settimane di mistica. Non ci si capisce più niente, come direbbe l'omino del bar, però senza cimentarsi in sofisticate e minuziose analisi economiche si intuisce che il carico fiscale del poveraccio che soggiorna in un attico di Piazza di Spagna sarà alleviato all'inquilino 2 camere cucina al casilino dintorni. Giustizia sociale o miracoli di un mondo alla rovescia. Mi presento, scusate, mi chiamo Aldo e una casa non l'ho mai avuta. Intendo una casa di proprietà, una casa che puoi dichiarare sulla denuncia di reddito, lasciare ai posteri dopo il definitivo congedo dalle umane ed effimere vicende terrene. E come me chissà quanti ce ne stanno. Una volta c'erano i baraccati, mio padre, ricordo, mi portava spesso a trovare un suo amico, per l'appunto baraccato, che viveva quindi in una baracca, ossia in un'abitazione fatiscente, con chiazze d'umidità ben visibili sui muri, per capirci tipo i segni sulla maglietta e prossimità delle ascelle che si formano nelle giornate estive dopo un viaggetto sul vagone della metropolitana senza aria condizionata. Questo tizio si chiamava Roberto e riusciva pure a scherzare sopra le sue disavventure. Abito al centro, diceva, ed era pure vero perché stava vicino al fiume, al biondo Tevere. Certo che in realtà per arrivare proprio al centro vero, quello dei monumenti e delle vetrine luccicanti, bisognava farne di strada e dotarsi di scarpe resistenti al fango, perché appena varcavi la soglia di quella baracca eri circondato da pozzanghere che non si prosciugavano nemmeno dopo 3 mesi senza pioggia. E i cani che abbaiavano non facevano paura, anzi esprimevano in tal modo tutta la loro saggezza. Sembravano dire: «Oh, ma dov'hai te, povero ma dignitoso baraccato, mischiarti con tutta quella gente scicchettosa che va per vedere al centro?» Su Baracca e Baraccati ci fece un film Ettore Scola, Brutti, Sporchi e Cattivi, anno 1976. C'era Nino Manfredi e quando lo vidi la prima volta, andavo ancora alle elementari, mi venne solo da ridere. Poi lo rividi che capivo già qualcosa, ho detto qualcosa, mica mi voglio allargare, e le risate si alternavano a meditabondi e intensi attimi di riflessione. Come a dire, ma è possibile che c'è gente costretta a vivere così? Ah, mi correggo, ho scritto che una volta c'erano le baracche, ma che? Le baracche ci stanno ancora, basta cercarle e scovarle, e ci abitano per lo più rom immigrati, ovvero quelli che occupano le ultime posizioni nella graduatoria sociale. Io, dicevo, mi chiamo Aldo e non ho mai avuto una casa tutta mia da denunciare sul 740 o sul 730 o da scrivere sul testamento. Per una vita sono stato in affitto, pagavo 1 milione al mese giù di lì, ogni tanto mi davano il moroso e si presentava un tizio tutto imbellettato che faceva l'ufficiale giudiziario. Intanto cercavo di risolvere la questione con domande all'Istituto delle Case Popolari, ma quando pensavo di essere arrivato al dunque mi gelavano, dicendomi che il punteggio non era sufficiente o che non c'erano case da assegnare. Andava sempre così e non cambiava se al posto di sindaci democristiani venivano eletti sindaci che sventolavano bandiere rosse con la falce e il martello. Uno di questi sindaci una volta disse una bella frase, disse che Roma è una città con troppe case senza gente e troppa gente senza casa. Belle parole, se solo fossero seguiti i fatti. Invece le politiche abitative erano sempre quelle, subalterne agli interessi dei palazzinari, i veri padroni della città. Come dice sempre quell'amico mio del movimento di lotta per la casa. E a proposito dei movimenti di lotta per la casa, un sabato pomeriggio di tanti anni fa, ma tanti, che tenevo ancora i ciuffi mori mentre passeggiavo per le vie del centro e di un lungo corteo di gente. Mi fermai sul ciglio della strada, ascoltai i comizi e gli slogan. Uno slogan faceva: non si può pagare un milione al mese, per questo le case ce le siamo prese. Ho subito pensato: oh, ma questo so io. Così mi sono accodato al corteo e ho cominciato davvero a lottare per la casa. Che poi la lotta per la casa si fa da decenni e decenni, con occupazioni, cortei, slogan. Quello dei fiori tastierini me lo sono imparato subito. Dice: siamo sfrattati donne e bambini, abbiamo le porte dei cellerini, ma un giorno l'altro se li faremo. E alla fine si invita il sindaco di turno a un bel soggiorno e la gelida Siberia. Quando l'ho sentito la prima volta c'era niente di meno che il socialista Franco Carraro. Ora c'è il democratico Ignazio Marino. Sempre le stesse storie, le mani sulla città di speculatori senza scrupoli. Le mani sulla città, come il titolo di un altro straordinario film di Franco Rosi, anno 1963. La casa si prende, l'affitto non si paga e c'è chi per reclamare questo sacrosanto bisogno ha preso lacrimogeni e manganellato e ci ha lasciato la vita. Ordinaria repressione, quella di qualche mese fa, che ha colpito una ragazza precaria di San Basilio, finita sanguinante per le randellate di soletti e gendarmi che sanno sempre da che parte stare, anche perché non se lo sono mai chiesti. Usi obbedir tacendo, a servire qualsiasi padrone, compresi quelli che fanno soldi con le colate di cemento o con la disperazione di migliaia di persone. Storie più remote ma mai dimenticate, quella di Fabrizio Ceruso, proletario di 19 anni, ancora San Basilio, anno 1974, ucciso mentre difendeva sulle barricate le case occupate, ricordato anche in una splendida canzone che ricorda quando l'odio di classe sia prezioso, quando il popolo prepara la riscossa. Occupazioni, nomi in un giorno solo qualche mese fa, tsunami tour, tsunami vero, non quello fasullo del comico passato alla politica. La casa rivendicata da inquilini alle prese con sfratti ufficiali giudiziari, morosi li chiamano secondo le regole dei codici supini alla difesa del diritto di proprietà o addirittura senza titolo. La casa rivendicata dai migranti. E che spasso è il racconto di Calette, che ha occupato proprio il giorno in cui il nuovo pontefice, quello che pensa ai poveri ma perché essi nodali, si insediava in Vaticano. E il centro era pieno zeppo di guardie e per eludere il loro fastidioso controllo bisognava escogitare un colpo di genio. Come travestirsi da pellegrini col fazzoletto bianco e giallo stretto al collo e non reclamare salvifiche e benedizioni papali, ma per riprendersi il diritto a una vita dignitosa e un tetto sulla capoccia. Mi chiamo Aldo e una casa non l'ho mai avuta, però lotto quotidianamente perché la gente come noi non balla mai. Al grande corteo romano di ottobre ci stavo pure io, tra tante persone determinate ma allegre, con il sole che sembrava volerci baciare, con tante bandiere strette tra le mani. Colore rosso di rivolta, poche ma semplificative parole. La casa si prende. Era per questo Le case ce le siamo prese di Renato Beretta sull'ultimo numero di Lasca.